dimmi. Ah, non sento niente lui. Non si sente niente. Ah no, è perfetto. Prova con quello. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. No, non parlare, prova a mettere la portante su. Boh, non so cosa dirti. Ah, ma non si sente niente, guarda, per me è perfetto. Sì, anche qua, boh, non so cosa dirti. Ma non c'è niente, dai, è regolato, sinceramente l'abbiamo regolato bene. Ma fregatene. Freia, ok, a posto. Luca. Chi è? Giuseppe. Oh, Giuseppe. Sono io. Ah, tu sei Antonetti. Mi sono sbagliato, mi sembrava, Appunto, cambia la cosa. Come fa? Bene. Tu come va? Ehi. Sempre in macchina, mai a piedi. Meglio così, sono contento. E tu sei a piedi? Sì, io sono a piedi di soco. Sono a piedi di mago, a un certo punto. Ehi, dai, fa bene a camminare a piedi, dai, ci fa bene a te, dai. Già lo credo. Com'è questa radio? Buona, 5 è chiara. Allora fa bene, meglio così. Bene. Non c'è altro nessuno? No, non c'è altro nessuno. Tutti a farsi dare il bagno, sono andati a Plazamont. Tutti a Plazamont a farsi il bagno, so. Per carità. Tutti in giro. Ah, che PMR stanno abbandonando. Sì, io ce l'hai gente, non ti preoccupare, PMR, va. Non è che mi preoccupi del tanto, no. Entra, io ci parlo. Se lo c'entrano, non parlo, siamo sempre lì. Non perdo niente. Già lo so. Adesso domani vado a sistemarmi un po' l'antenna, perché ce l'ho girata. Se il motore è bloccato, lo salire sul palchetto domani. A sistemarmela un pochettino. La smonto e vedo di fare le cose come si deve. Sta arrivando bene comunque, sta arrivando benissimo. Bella, pulita, tranquilla. È a fondo scala, sì, dai. Meglio così, sono contento. Ma sono quarantennino io, eh. Io sono quarantennino a Punta Taccoso, a Badi Urbala. E a Monteoro. Sì, Monteoro non c'è. Sì, il motore è fermo, hai capito? Fermo perché ha problemi. C'è il pezzo della... in pratica che fa girare che è spaccato, il pezzo di ferro. Adesso devo... se domani fa una bella giornata, stasera c'è un sudadito, se che magari piovesse, ma domani se fa una bella giornata, sta cosa al tetto, raschio tutto e vedo se si può saldare. Se si può saldare è bene, se no piglio il motore e ce lo butto. Ma se saldato il motore, se è tagliato il motore, se in alluminio si può saldare anche l'alluminio, mica si salda l'alluminio. Appunto devo distaccarlo però, il discorso è quello, lo devo distaccare e farlo saldare, il discorso è quello. Adesso farò così, distacco il motore, lo pulisco bene dalla falsedine che c'è intorno, il pezzo dove si è formata quell'apertura e lo faccio saldare. Gli metto un coso per stringere in modo che torni come prima, poi lo faccio saldare sopra. Ah, se c'è la saldatrice, te lo puoi saldare tu stesso, sempre se sai come fare per l'alluminio, capito? E ho visto che Luca salda anche l'alluminio. Cata, ma sa come fare, io non sono riuscito, lui ci riesce. No, io non so saldare roba così. Luca può saldare tranquillamente l'alluminio con la saldatrice, quella a filo continuo, capito? Io quella che ho io la saldo qualche volta, ma salta arrangia di cose, non è che mi sa bene la saldatura, capito? Perché uno bisogna saperlo saldare, però qualche pezzo già l'ha disagiato e non si è distaccato mai. Ma per le saldature bisogna saperli fare, capito? E la mia è fatta a filo continuo, capito? Non la puoi saldare così. a parte ci sono i garage, quindi deve stare pure il butti acqua fredda in modo che la freddi subito, se no si sciogliono la parte meccanica, sarebbe inutile a un certo punto. Comunque c'è qualcuno che salda anche l'alluminio, ce ne sono parecchi, ce ne sono a Sassari. Io non ne conosco nemmeno uno, però so che ci sono perché me l'hanno detto e non so dove sono, capito? Eventualmente bisogna cercare di sapere dov'è questo e se salta te lo saldano. E se non faccio una cosa, che è molto più semplice. C'è un trappa, due punte, non faccio altro che metterci prendo una di quelle pinze a scatto, premo una volta le due estremità, dopodiché gli faccio i fori e ci metto un ribattivo da una parte e un ribattivo dall'altra, non si muove più, ed è fatta. Anche così puoi fare, anche questa... almeno te lo metti a posto, capito? Perché il motore non c'ha niente, capito, dentro, quindi solo quello. Non so come abbia fatto a spaccarsi, evidentemente ha avuto qualche colpo di vento, sbattendo finché non si è aperto. Ho capito. Allora, un attimino mi sto chiamando, mi stanno chiamando. Fai pure un comodo, non c'è problema. Attenzione, Gian Maria, Patizio! Acchisio! Se faccio qualcuno? Buonasera. C'è anche lei? È un po' bassino in radio comunque, leggermente. Però è pulita. Sei basso, pio, chi sei? Basso sono, come mai? Don Marino, adesso hai alzato la voce, non può fare nulla, ricontinua. Perché ero lontano, dai. Ok, lontano. Beh, come andiamo? Sto a posto, sì. Insomma, Mari, cose così. E tu come mi ascolti? Ho cambiato antenna stasera. Va benissimo, Bacchi, va benissimo. La modulazione è bella pulita, dai. Sì, perché l'antennino che avevo prima è caduto. È caduto lo stilo, il centrale. E allora ho messo un'altra. Va bene comunque, va benissimo, Bacchi. La sorella non è che cambia molto, ne avevo una già pronta, mi sono accorto a mezzogiorno che lo stilo era inclinato, stasera mi ho messo la scala, sono andato su ed era staccato, allora cambiamo tutto, via. Ma chi è la sorella, la mia? Esatto, la sorella, si è invecchiata prima dell'ora, si è marcito lo stilo centrale. Strano, boh. E vabbè, dai, comunque va benissimo, Bacchi, va troppo bene, dai. Ma tu perché sei così basso stasera? Non sei bello squillante, non stai parlando lontano dalla radio? E lontano dalla radio sto parlando, Bacchi, lontano, un po' lontano. Aspetta un attimo che... Ok, adesso va bene. Va benissimo. La 27 che non c'è nessuno, sono sul 10. Nessuno. Tutti sul 10 sono, eh? Anche Gio Maria? No, Gio Maria non ho sentito. E chi c'è sul 10? Giulio e compagni, hai? Esatto, io non ascolto perché c'è la gente qua e stavo un po' ascoltando tutto qua. Bene Mela. Boh, Graziano nulla hai sentito, no? No, non ho saputo nulla di Graziano, dice che era con l'influenza. Però non si è saputo nulla. E a tre giorni a letto. Ho dato un messaggio, a tre giorni a letto. Speriamo che li passi subito. Ok. Ma deve essere, ne ha voglia di modulare, se no si era portato al portatile in camera da letto. E aveva parlato. E sicuramente non ha voglia. Poi con quelle... come si chiama? Con le pastiglie sta prendendo una cosa all'altra. Comunque è un po'... magari viene male, non ne ha voglia. Meglio che si riposi un pochino. Io lasciamo riposare. Riposa. È così la vita, proprio a rotoli. Allora, domani lavori? Eh sì, domani dopo poi c'è una notizia diversa dal solito, e non più balle queste, però non più balle, no, boh. Con l'altro facevamo più veloce il sabato, invece con questo mi tocca tardare un po' di più. Con l'altro facevo, usciva prima e si faceva la roba grossa, poi quando uscivo io e facevamo il giro, ricontrollavo il giro che ha fatto e ciccia. E da 1:30 alle 2 ero già a casa. Con questo bisogna, speriamo che si sceglie un sonno. Ah, di quelli tranquilli che faccia prendere proprio a rilento. E forse perché passa più ore, segna più ore. E a chi non ha gana, non presura, non ha voglia. Non ha voglia, quello là c'ha famiglia, è ormai tra settimana che c'è tardi, il sabato invece va a fare sabato. E chiesto l'azione, dice è prima, si fa la roba grossa, poi quando vado io ripassiamo dove lui è passato, se è tutto ok, e così via, capito? Perché al centro dove c'è un orario a passare, perché non puoi passare alle 9:30, alle 10 o alle 11 al centro di Sassari, diciamo verso il corso di Ozzatti, perché c'è traffico e c'è casotto. Però all'esterno possiamo farlo benissimo, capito? Tutto qua. Ma speriamo bene che domani si sceglie, che si sceglie un sonno. Sì, vabbè, vuol dire a rilento, senza fretta, piano piano sempre andando di rito, via. E così. Noi, se più ci state, meglio è. Non è così, non è. Perché se ci stai fino alle 2, ti segna fino alle 2. Se stai fino alle 4, ti segna fino alle 4. Eh sì, perché noi timbriamo, firmiamo l'ingresso, poi timbriamo l'uscita, timbriamo e firmiamo logicamente e così via. Poi c'è poco a scappare, abbiamo tutti i GPS, no? Non è che è detto che ti dà un chip passo, e devi passare forse una gana. Questo qui che fa il volpino, capito? Questo fa il volpino, ma con me c'è poco a fare il volpino, perché io ripasso in tutte le zone del servizio che dobbiamo fare. Hai capito? Questo fa il volpino, tutto ok, Mari, tutto, sono già passato io, invece poi magari non è passato, invece non commego. Allora io cominciamo il giro, dice ma sono già passato, va bene, ripassiamo nuovamente, non costa nulla ripassare. Se ti va bene, ci fa di nel camion e io faccio la relazione dall'ufficio. Non me ne sbatte zero, il porto zero. Io non devo passare casini per colpa sua. Tutto qui, avanti. Ma sei solo, ho anche un altro collega tuo, se cioè, tu e l'autista oppure tu e le altre due? Faltiamo solo, io e l'autista, quel servizio va fatto così, capito? Io e l'autista e basta. Siccome questo è mezzo volpino, no? Con l'altro faceva l'onfietto, con l'altro collega, quello che fa, quello, il servizio facciamo settimana sì, settimana no. Questa qua toccava a me e da lunedì tocca all'altro, capito? E ha fatto il volpino, ma questa cosa ha fatto il volpino, dice ma sono passato, no? Non sei passato, non fare cazzate. Io la roba l'ho vista fuori, e da poi sono andato, mi sono lamentato dalla persona, no, io l'ho messa e non sono passati, e non è passato. Poi sono andato al computer a controllare, in effetti GPS, ma il mezzo non è neanche passato, capito? Brecchi. E avanti Brecchi. Ok, buonasera Bacchisi, buonasera Marino, e non so chi altro ci sia, io qua era accesa, ma siccome c'è gente sono venuto per spegnere lo stesso a voi, e ti riesci a salutarli, dai. Vi saluto, dai, io sto chiedendo che c'è gente, per cui buon proseguimento, dai, saluto io a tutti. Riprende Bacchisi. Sì, ciao Giammari, grazie di essere andato per salutare, saluto al cuore, a sentirci domani, se tutto coincide. Avanti Marino, salutare Giammari. Benissimo, grazie Giovanni, grazie che sei entrato, è stato in casa, domani se coincide, hai capito Bacchè? Quello lì è volpino, ma a me non mi frega, se volpino rimane a casa se non ne voglia, tutto qui avanti. È così, piano piano dai, già passa. Il signor Squalo stasera non si è affacciato, non si è affacciato il signor Squalo. Il Montesaro. Penso che non è andato a prendere la signora. Magari rientra subito, boh, non lo so, non ho sentito io. Ho deciso di ascolto e poi c'è il cognato, poi ho passato e così via, tutto qui, avanti. È tutto così, è tutto così, sei riposato, sei riposato, anda bene bene allora. Sì, ho riposato, un'oretta, va chi mi si è appoggiato, un'oretta. Sono andato a casa perché ho fatto, ho terminato alle 4.20, poi ho aspettato alle 4.30 che apriva la farmacia per tirarmi le dolorzie, roba mia e roba di mia moglie. Tra una cosa e l'altra c'è la gente, alle 5 sono andato a casa. Mangiato qualcosa e mi sono appoggiato, un'oretta, là, un'oretta buono, già va bene. Poi già dormiamo stanotte. E ti volevo chiedere, beh, passa, problemi c'hai a passare alla 27? Non ho capito io niente. Se c'hai problemi a passare alla 27? No, io no. Ma è acceso, solo deve inserire il microfono e sta andando. Sì, passa alla 27, se non c'è problemi, dai. Andiamo in 27, dai.